Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sarebbe giusto aggiungere live al nome Rock Wave, visto che oggi è mercoledì, il giorno clou per i live nella programmazione serale di Blu Radio Veneto. Bentrovati dalla voce di Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara, che non vedo causa sacchetto. Togli quel sacchetto, guarda. Buonasera a tutti, ecco, lo sacchetto è stato levato, quindi mi vedi adesso. Ti vedo benissimo, vedo anche i nostri ospiti questa sera con gli AQBE. Giusto? Sì, giustissimo, sì, giustissimo. Giustissimo. Gli AQBE direttamente da Pontoglio, provincia di Brescia. Perfetto. Nubifragio compreso. Perché anche loro, Stefano e Sergio, mentre venivano qua in autostrada, hanno preso il nubifragio, è così? Sì, abbiamo preso anche un'ora di coda. Anche un'ora di coda. Cose che capitano. I soliti lavori di mercoledì. Sì, se non li fanno di mercoledì, sì, insomma, di domenica, di sabato. Benissimo, allora AQBE, la sigla interessante, l'acronimo è Acoustic Cube, esatto. È così? Sì. L'idea di questa QBE, Cube, sì, sì. Esatto. Come mai l'idea di questo QBE? Allora, lo spiego io. Sì, perché lui è il leader della copertina. Che è Daniele Linetti, che Daniele canta. È lui che l'ha vocalist, ideato. Il vocalist. Allora, diciamo, l'idea dietro il nome è una cosa abbastanza malata, diciamo. Diciamo che io ho pensato, quando ho creato il nome, studiavo matematica. E cube è il cubo, che è la potenza di 3. Noi siamo in 3, cubo. Cubo acustico. Perfetto. Pennello. È perfetto, è proprio un... Ok, proprio centrato, semplice ma veritiero, essenziale. E poi l'ha proprio concretizzato nella copertina, che è questo cubo stilizzato in cui... Che in radio non si vede, però... Che in radio non si vede. Immaginatevelo. Immaginatevelo. Immaginatevi un cubo, dietro c'è il temporale, noi siamo fissati col temporale, anche il video che abbiamo fatto su YouTube aveva il temporale, abbiamo preso il temporale. Perfetto. L'idea di questo progetto a tre... Come è nato, come è sviluppato? Ringraziamo anche Gil, che è in regia assieme a Sergio stasera. L'idea come è nata? L'idea di musica un po' particolare. Qualcuno vi ha considerato new folk, gothic, un po' di... Sai, i giornalisti cercano sempre di dare un'etichetta. Noi non siamo giornalisti, ma l'etichetta forse la diamo lo stesso. Sì. Ok, dai, dimmi. Se posso... Sì. Vai. Stefano. Stefano Cavalieri alla chitarra, è una bella acustica. Cavalieri però ha una bella acustica stasera. Dai, media facciamo, una media acustica, mentre Domenico ha una tastiera bella grande che copre quasi tutta la stanza, ma molto leggera, ma mica tanto, visto che prima praticamente Stefano l'ha tenuta su, non era mica tanto leggera, era un po' pesante, era tutta scena, quella che ho lasciato a casa è molto più grossa. Allora vai, dimmi. Allora diciamo, noi all'inizio non avevamo proprio un'identificazione del genere, però come hai detto giustamente tu, dopo che abbiamo fatto un concorso a Cremona, un giornalista ci ha definito folk rock progressive con influenze medievali barocche, e noi abbiamo tenuto buona anche quella, vedo Sergio che fa strani gesti, ma è tutto vero. Abbiamo anche i giornali. Se ti chiedo di ripeterla, non so se te la ricordi. Da quanto lunga è? Folk rock progressive con influenze medievali barocche. È molto altisonante. Sì, cavolo. Cioè, sembra una cosa seria. Sembra. Ascolta un attimo. È seria. Ma perché la vostra musica è una cosa seria, assolutamente. Sì, certo, sì, tratta sì. Anche mi piace temi... definirla uno scontro frontale tra Vivaldi e Muse. E i Muse, è giusto, è la cosa. Hai detto giusto. Stiamo esagerando un po'. Qua, hai detto esagerando la cosa. Ma i Muse, qua, c'è un alone sconosciuto o conosciuto che passa anche potrebbe. Per i Muse. Potrebbe passare anche per i Muse, sì, visto sì, che sì. Il disco dei Muse uscirà fra poco. Esatto. È in virtù. Il 2 ottobre. Il 2, sai tutto, sei un fan sfegatato dei Muse. Un po'. Un pochettino. Bene, quindi questa etichetta è un'etichetta interessante che preclude a una musica interessante. Ci sono i violini, ci sono le tastiere, c'è la chitarra e c'è la musica folk, assolutamente folk, però riveduta e corretta. Un folk riveduto e corretto, anche nell'ottica dei Muse, perché no? Sì, i Muse anche, possiamo identificarci anche un po' sui Queen, visto che il nostro cantante è sempre stato appassionato dei Queen. Freddie Mercury praticamente. Un po' il Mercury, cioè. Sì, sì, vabbè, non arriviamo a quei livelli, senza non strafare. Senza strafare. Sempre un'ammirazione. Un'ammirazione, sì. Ci, Anche se è vero che comunque intanto dal retroterra delle cose viene anche da... Io che ascolto una marea di gruppi irlandesi strani, scozzesi, Capper Kyle, eccetera, e mi piace molto le loro costruzioni melodiche. Quindi c'è anche l'origine celtica, irlandese, cioè l'origine folk nel senso esatto, è un po' tutto, non so, è un connubio tra più generi che ascoltiamo. Sì, ma il disco è sono d'accordo, è un connubio tra più generi, però è molto piacevole l'ascolto, almeno secondo ringraziamo anche il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che vi ha voluto fortissimamente qua stasera. Infatti perché... volevo ringraziarlo, visto che non è qua, pensavo di incontrarlo, ma davvero vi sente via etere, oltre per la radio anche via computer, insomma. Beh, ti posso sentire in tutto il mondo via computer. Certo. BluRadioVeneto.it, lo ricordiamo. Sì. Quindi questa miscellanea di cose interessanti, di suoni interessanti, di volumi anche interessanti, perché quando cedete, nel senso positivo. Essendo un po' progressivi, comunque ci sono questi sbalzi, diciamo, anche di volume, non solo esattamente di cambi di tempo. A proposito di sbalzi di volume e di cambi di tempo, noi come sempre apriamo la nostra finestra e il primo pezzo, abbiamo scelto un primo pezzo dal disco. Che pezzo è? Ve lo ricordate? The Narrow Way. Lo vuoi spiegare prima o lo spieghiamo dopo? Prima, spieghiamo prima, dai. Qui si può capire. Perché l'hai scritto te, Domenico? Sì, ho scritto io la musica e il testo. Allora, The Narrow Way è un riferimento biblico. Si parla praticamente di questa strada stretta e nel farlo ho immaginato i quadri di Hieronymus Bosch, queste specie di peccatori tutti. Certo. E sostanzialmente parla del fatto che questa strada è un po' la strada che ognuno sceglie per sé, non quella che gli altri tracciano per te. È una strada che non è facile da fare, è una strada che spesso tanti, la canzone dice, spesso tanti ti guarderanno mentre arranchi, mentre fai difficoltà, perché la strada stretta è con quella più difficile. Però questa canzone verso la fine tenta a aumentare di velocità, perché è come una presa di coscienza praticamente, come se una volta che tu hai intrapreso la strada stretta e sei consapevole di come del fatto che la stai facendo, fai meno fatica. È un piacere, sono prolisso. No, ma è spiegato, l'autore deve spiegare i suoi pezzi. Ineccepibile. Chiaramente sì. Manca solo di ascoltarla. Ok. Rockway, l'onda del rock. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Gli AQBE qui a Blu Radio Veneto in questo mercoledì sera. Maurizio, io ho sentito molta new wave anni 80, anche un po' di Stranglers. Ah, che bello. Golden Brown. Hai ragione. Eh sì. Di Strangler. È vero. Gli Stranglers no, ma la new wave anni 80 sì, gli Ultravox. Esattamente, gli Ultravox, ma anche gli Strangler. Nel cantato io avevo notato gli Strangler. Parliamo un pochino, sì. Vai, vieni avanti, eh. Se c'è una somiglianza è totalmente casuale, vi dirò, perché l'ho cantata così e basta. Semplice associazione, così. Cavalcavi proprio le voci, i suoni te cantando, assolutamente. Sì, cerco sempre un po' di seguire un po' il ritmo, di non essere... Si medesima, diciamo. Piatto in tutta la canzone, cioè ci provo. Poi non so adesso se... parliamo con Stefano, visto che Daniele mi ha detto, mentre il pezzo andava, che tu in un certo momento ti sei stufato dell'andamento del pezzo e lo hai velocizzato volutamente, esatto. Proprio tagliando e via, andando in un altro senso. Diciamo, in origine la canzone erano tutte e tre le strofe il ritornello alla stessa velocità, sempre cadenzata, lenta. Io ho detto, cavolo, sono 3 minuti e mezzo di canzone così, secondo me è anche un po' piatta. Io sono anche molto influenzato da un genere, dal genere degli Iron Maiden, per esempio. Quindi sei un metallaro praticamente. Un po', sì. Un po' metallaro. Un po' arrugginito. Mi sono dato all'acustica dopo il metal e ho detto, cavolo, qua ci sta il tempo doppio, facciamo una cavalcata stile Iron Maiden e via. E Domenico ha detto sì, ci sta bene. C'era la possibilità di fare un po' di Veronica con la tastiera, quindi esatto. Ci sono stato. Così ho potuto giocarci dentro un po' con la tastiera e Daniele ha seguito bene. Ha seguito molto bene, ho detto perfetto. E qua ci stanno anche gli Strang, come diceva giustamente Sergio, poco da fare. È casuale, È casuale. Bene, interessante, quindi una costruzione che è nata in una certa maniera, poi sviluppata da te e poi completamente conclusa in una certa in una maniera finale, sì. Totale. E ci stava bene come inizio del disco? Ma... diciamo di sì, fa proprio capire come siamo messi, qual è il nostro genere. Voi diciamo. Che avete suonato tante volte dal vivo, siete amate suonare live, perché live è una cosa essenziale per voi, mi avete detto a microfono spento. Allora, suonare da live è bellissimo, però, come ripeto, come ti stavo dicendo prima, fuori onda... Adesso lo puoi dire in onda. È anche difficile suonare dalle nostre parti se non fai o un genere molto richiesto o comunque delle cover. Certo, ma con G abbiamo parlato. Ah, come dappertutto, insomma. In Italia, soprattutto. Sì, con Sergio spesso e volentieri abbiamo parlato del discorso delle cover. Tutta la gente vuole le cover. Mica tanto adesso, sono in crisi anche le cover, però. Sì, esatto. In crisi un po' di tutto. Ma troppi gruppi. La crisi troppi economica. Che fanno... Però troppe cover davvero hanno stufato. Liga, Vasco, Guns. Sono d'accordo. Meglio puntare sugli AQBE che sono nuovi. Un po' di cover degli AQBE, direi. Dai. Facciamo delle cover di noi stessi. Speriamo che Liga faccia la nostra cover, magari. Beh, andate subito in classifica. Allora. Dopo inizio a stimarlo un po' di più. Non lo ascolto tanto, quindi non saprei. E quando è nato questo pezzo musicalmente? È stato uno dei primi... arrivato dopo, no, vai Domenico. Allora, Denaro Way è arrivato dopo e devo dire che è una melodia che mi ronzava abbastanza in testa, quella cosa molto cadenzata, sì. Molto, molto ballosa. E poi è nato il testo che proprio questo cadenzate fa un po' il... dimostra un po' l'andamento di intraprendere questa strada stretta comunque. Comunque ne è nata dopo 2 o 3 canzoni che avevamo già fatto insieme. Insomma, a metà CD, diciamo. A metà CD, chiaramente. Infatti è la seconda. È la seconda. Non fa una piega. Come per questo è un EP, praticamente un demo. Sì, esatto. Un demo ben fatto. Long EP, bene. Diciamo. Un long EP, dai. Poi perché al posto di 4 o 5 sono 9. È un long EP low cost. Low cost, molto low cost. Molto low cost. Ci sono un po' di errori presenti, però sono ben mascherati, diciamo. Anche perché l'abbiamo registrato in... una giornata, 8 ore praticamente. Non Michael Jackson, ci metteva un anno per fare un pezzo. Nel salotto di Domenico. 6 ore esattamente. Vabbè, dopo c'è stato anche un po' di rimasterizzazione così. Nel però salotto di Domenico. Non pesante. 8 diciamo. Ore secche. 8 ore secche. No, vabbè, il pezzo master è stato fatto a parte. Suoniamo? Ok. Perfetto. Che cosa? We Forget. Ah, We Forget. Thank you. lie, we forget the people who were good at deluding ourselves for life. We forget the things that hurt, and every time when trust or revenge, we forget the things that hurt, and those who smile while waiting in our defenses. No sense of justice in the gray skies, where people struggle for more butterflies, and the world we fall back in the same hands of infamous people. Where is the remorse for those hands? And we forget, because our revenge becomes so strong, every fear we return to a shining hand of infamous people. Sense of truth, what's the meaning of your life? We forget the people who hurt your soul and dance on fire. We forget a sense of truth, what's the meaning of your life? Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Non siamo in perfetta sintonia. È un pezzo molto bello, un finale quasi, non so, epico, possiamo dire questo? Sì. Ha un po' di epico, decisamente. Beh, noi diciamo di sì, ok. Poi io, però, ma ci sta. Gli ascoltori non l'hanno visto perché non ci sono le telecamere, ma c'era il nostro vocalist, Daniele, che come fosse un direttore d'orchestra, dava l'input continuamente con la mano ai ragazzi, ai colleghi, ai musicisti che suonavano insieme. È un con buon lui. Direttore d'orchestra. È un direttore d'orchestra, dava proprio l'input, dava proprio i tempi dei pezzi. Daniele è così? Esatto. No, smettila. È un pezzo molto di pathos, di coinvolgimento. Esatto. Cosa dici? Per quello che dico, sembra un direttore d'orchestra, in realtà lui andava a tempo mentalmente e anche con le mani teneva il tempo. Hai detto una cosa giusta, Stefano, teneva il tempo con le mani, esatto. Si è visto, ma continuamente, e poi ha aspettato alla fine, il finale, il tempo giusto per entrare, assolutamente il tempo giusto per entrare. Non può sbagliare, eh. No. Non è mica semplice fare un pezzo simile, visto che Domenico l'hai scritto te. Il discorso dell'arrangiamento, l'insieme delle cose, non parlo del testo, l'insieme delle cose, Sì, diciamo che quel pezzo qui era nato perché all'inizio doveva avere un incipito orchestrale, perché proprio è dedicato a V per Vendetta. V per Vendetta è un film sostanzialmente molto bello. Che conosce bello. Molto bene Gigi, sì, me l'ha detto prima. È un film molto bello, è molto giocato sulle immagini, su queste maschere. Poi questo tema comunque delle maschere torna un po' adesso con questi discorsi di Occupy Wall Street, eccetera. È un pezzo abbastanza, perché la fine del film parla della richiesta di giustizia universale, cioè può essere banale nel suo essere banale, ma non lo è, e sostanzialmente la giustizia, la richiesta di giustizia, la giustizia praticamente ha questa cadenza molto tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam, che praticamente è un po' come Beethoven, il destino che suona la notte. È questo finale di coro molto, molto tedesco, molto, molto wagneriano, possiamo dire questo. A me piace imitare la voce di System of a Down quando faccio il finale del coro. Ecco. Quindi wagneriano in quel senso là. We forget the people. Wagneriano in quel senso là, praticamente. Esatto, è un po' epico alla fine, è anche un po' classico. È un po' classico, decisamente. Benissimo. Soprattutto perché stiamo facendo completamente diversa da come succede. Ma è giusto che sia così. Live si fa sempre le cose diverse. Certo, bisogna dare una certa... Se no non c'è gusto. A proposito di live, voi ne avete fatte tanti, poi avete partecipato al concorso che abbiamo citato prima, un concorso importante, il Music Village Invernale di Montecampione. Sì, esatto, più che un concorso. Cosa è stato? Una specie di... Di esibizione. C'erano anche delle esibizioni, ma era una sorta di campus, cioè? Con degli specialisti del settore che davano varie lezioni su come... Molte etichette indipendenti, sì, diciamo. Soprattutto tanti complessi, magari anche loro ai primi anni, perché erano lì magari da un anno e mezzo. E davano consigli su magari come tenere il palco, cosa migliorare, cosa andava bene, e c'erano vari insegnanti che davano anche lezioni durante la giornata, quindi... E quindi è servito sicuramente. Sì, sì, sì, sì, indubbiamente. E diciamo che abbiamo migliorato un po' lo stile dal live, perché è la prima cosa che ci hanno detto che non andava bene. Eravamo tre pali all'inizio. Adesso meno male ci vestiamo. Adesso sembra ci sia un po' di vento. Come vi vestite? Allora, adesso tendenzionalmente tutti e tre di nero con le camicie. Come stasera praticamente, o quasi. Io ho i jeans blu, però... Stasera hai solo la camicia nera. Ma tanto non mi si vede. Non si vede. Poi dimmi. E niente, l'unico appunto che ci avevamo fatto, abbiamo detto che le canzoni erano comunque carine, belle, però mancava un po' di spirito sul palco e l'abbinamento tra di noi, ed è quello su cui ci siamo incentrati in quest'ultimo anno. Mancava un po' di spirito fra di voi, nel senso, eravamo fermi, meno male mi muovevo solo io. Vabbè, Domenico non ha molta possibilità di muoversi, sì, visto che ha le tastiere. Esattamente, ma il cantante sì. Esatto, ci stiamo... Mi concentravo un po'. Daniele, non ti muovevi, non davi la spinta. Adesso, in questo momento sei seduto, però gli ascoltatori non possono vedere, ma diventavi un direttore d'orchestra, come avevo detto prima, ti muovevi con le mani, davi le movenze. Invece in quel momento di inizio di carriera vostra, ti muovevi poco. Diciamo che... Prima di allora, che non è tantissimo, è meno di un anno fa. Cioè, un anno fa circa, esattamente. Non avevamo avuto molte possibilità di suonare, quindi un conto è stare in sala prove, un conto è suonare dal vivo e quindi accumulare esperienza. Esattamente. Avendo fatto praticamente solo un live in un anno, prima del Music Village... C'era un attimo di tensione, tutto, poi sapendo che magari c'erano delle etichette così... Ancora meglio. Domenico, cosa vuoi dire? Qualcosa? Che il Music Village ci è servito soprattutto a confrontarci con l'esperienza di altre band giovani, come ho detto prima, soprattutto è servito anche a cementarci più fra di noi, anche come stile, come cose, eccetera. E quindi secondo me è stata un'ottima esperienza, anzi la consiglierei a tutte le band emergenti. E poi una cosa interessante, avete aperto come premio, avete fatto un contest al Scarica Live di Odolo, mi pare. Esatto. E avete vinto un premio che non è poco. Concerto di Giorgio Canali, come si, e il Rosso Fuoco e i Pan del Diavolo, due gruppi molto interessanti. Giorgio Canali è un grandissimo artista, un grandissimo produttore, un grandissimo musicista. Com'è stata l'esperienza di aprire il concerto di Giorgio Canali? È stata grossa. Sì, più che altro eravamo in una zona, cioè un po' come adesso, in una zona in cui non eravamo mai stati, quindi andavamo un po' incontro all'ignoto. Diciamo l'accoglienza è stata buona comunque. Ci siamo trovati. Anzi, li ringraziamo. Ringraziamo lo staff che ci ha aiutato, ci ha seguito. E comunque è stata una bella esperienza. Beh, un'esperienza che poi è servita per allargare. E comunque fa sempre curriculum, no? Come no? Suonare il primo concerto di Giorgio Canali, il Rosso Fuoco, non è mica. Sì, diciamo che questo il bello è stato vincere questo concorso, perché comunque c'erano più di 30 band in questa sfida e ne passavano, erano solo le prime 5 che venivano prese. e noi siamo saliti a queste 5, quindi eravamo già soddisfatti di questo. Certo, certo, siete arrivati in finale. Esatto. Cosa dici, Sergio? Mettiamo un altro pezzo del disco? Potremmo anche mettere un altro pezzo dal disco. La traccia deve essere la numero 3, 24 Hours. La se vogliamo un momento, sì. Sì, sì, allora, sì, sì. 24 Hours si incentra sul numero 24 e parla appunto delle ore durante una giornata che sono 24 e parla della tipica situazione in cui si trova ogni persona la mattina. Ho 24 ore, chissà quante cose potrà fare. Alla fine però si fa ben poco. Quindi questa canzone parla di appunto questa esperienza. Andiamola a sentire. Rockway, l'onda del rock. Sì, è d'accordo. No, sì, no, ti ho fatto cenno punk, per parlare. Era un pezzo punk. Si può anche essere. Sì, sì, sì. Ci sta. Ci sta, ci sta. Perché l'idea era questa, Domenico. Dammi un vicino al microfono e spiegaci l'idea originale com'era. L'idea di 24 viene dal fatto sostanzialmente che il signor chitarrista qui, Stefano, che prima ha detto che aveva influenza in Iron Maiden, in realtà è praticamente innamorato di Blink 182, di certo punk. Allora, per vincerlo ancora di più a suonare, ha detto scriviamo qualcosa di punk con degli archi, comunque delle cose, vedete. E il tema praticamente è quello comunque delle 24 ore che ci stritolano. C'è una frenesia totale. Sì, infatti. O quasi. Però ci vuole il punk, c'è poco da fare. Diciamo che quando l'ha scritto ha detto può essere solo così. Io in quel periodo stavo ascoltando molto i Paramore, che è un gruppo punk rock. Li conosci? Sì, c'è una canzone. Vabbè, perfetto, ma li conosci? E era una canzone, comunque era uscita da poco, si chiama Ignorance. E fa, cioè, più o meno il ritmo non è proprio questo, però volevo... cioè, ero influenzato da quella, questa cosa, sì, sì, sì, esatto. Sì, sì. E Daniele, non dico che ha la voce da donna, però si avvicina, riesce a prendere tonalità alte, sì. Ci stava a pennello. Hai detto cosa giusta? È un complimento. È mica semplice cantare un pezzo simile a tonalità molto alte. Poi giustamente diceva Stefano che ci dovrebbe essere una batteria qua, assolutamente. Dovrebbe essere una batteria che spacca. Ci stiamo pensando. Qua letteralmente spacca una bella batteria. Qua da proprio è cadenzato. È molto cadenzato, E aumenta molto. È un groove, come si chiama. Esatto. Ma decisamente. Sì, più che pensandola stiamo già provando. Avete già l'idea della batteria. Una batteria elettronica. Batterista. Batterista vivo, carne, vivo. Batterista big and powerful, come John Bonham. Esatto. Quello che stiamo che abbiamo adesso, diciamo che è in prova. Che è in prova. Ma non è che è per noi in prova, per noi sarebbe già preso. Diciamo ma che lui nostro. Vorreste una donna? Secondo me è lui. Quello. Non si può avere tutto. No, diciamo che questo è un nostro amico, però ha tanti altri impegni e non sa se riesce a portarlo avanti. È inutile iniziare se vogliamo poi... portarlo al Music Village quest'anno, così cementiamo anche lui. Sarebbe una bella idea. Vabbè, batterista, secondo me la batteria è fondamentale. Lui sarebbe quello perfetto per farci la batteria. Ma avete già scritto dei pezzi nuovi per la batteria, no? Non è sono così. Già tutti pensati. Ah, sono già tutti pensati. Però. Io quando penso alla chitarra penso sotto la batteria. Quindi... E quindi sei un rockettaro, c'è poco da fare. Metallaro, è più rockettaro che metallaro in questo caso. Esatto. Io invece penso alla melodia. E tu sei... E tu, Daniele, io do più il ritmo, lui la melodia. E tu, Daniele, che cosa pensi? Io canto. Ma devi pensare... Dà l'emozione lui. E dà l'emozione. Ci siete perfetti, c'è tutto. Lui è buono alla prima, quando registra... Che vuole fare una nostra cover. Fatevi avanti. Beh, buona alla prima, hai detto una cosa bella. Buona alla prima per te. Quando l'hai sentito, via subito. Sì, solitamente sì, poi spero di non smentirmi stasera l'esibizione, però solitamente va tutto abbastanza, cioè le tracce vocali del CD non le abbiamo incise. Deve venirti un ictus adesso per insomma, vabbè. Assolutamente. Insomma. No, ma cioè tu senti immediatamente che il pezzo va e via, cominci a cantare. Sì, cioè magari lo ascolto un paio di volte, inizio a cantarci sopra e... Ma c'è una dialettica democratica nel dire no, secondo me questo riff non va bene, secondo me Domenico questa melodia non diciamo va bene. Diciamo che ne discutiamo spesso io e Domenico. Sulle melodie non si discute. Ah, quella la fai così e basta. Sui riff... Diciamo che magari cambio io qualche su quelle che pensa lui, giustamente dico magari qua sta meglio qualcos'altro, come ti dicevo sulla prima canzone. Sì, certo. E vabbè, dopo a volte accetta, a volte troviamo una mediazione. Comunque io cerco sempre di spingerli a scrivere roba loro, perché anche il Daniele scrive di quelle cose. E non scrive, cioè, perché non scrivi qualcosa? Arriveranno. Perché non scrivi qualcosa? Perché lui ci mette le pensa, poi escono di quelle hit. Perché appena esce una delle cose su Daft Punk sento dell'ironia. Adesso sento dell'ironia. No, ma prometto che per il 15° EP ci sarà il mio pezzo. L'ironia sta facendo il cantante, perché mi sa che non li scrive. Però davvero io li vorrei i suoi pezzi. Bene, 22:42, facciamo un altro pezzo chiaramente. Che cosa? Facciamo TKO2S. La spieghi dopo. Che spiegheremo. La spiego dopo. Spiegherà Domenico dopo. Ok. You know that stories made by winners. Nothing real is what you read. You know that losers are like sinners, guilty only of have lost the war. And thus the deepest roots are submerged by the lies. And over time a land loses its story. But the great game of nations wants to steal our freedom, sell high the mirage of a fold so free into belief. Name this unity. made by our sad king. We're caused by too much trust in Alice. That it too tarnishes his raging face in the world. The finest follows the negation of God. And thus the deepest roots are submerged by the lies. And over time a nation loses its history. But the great game of nations wants to steal all freedom. Shall hide the mirage of a false so prey and to believe name that. So that you dream and see. Bravi, bravi, bravi. Mi piace. Sì, bella, ci hai entusiasmato. Domenico, rifai l'inizio di questo pezzo che ci hai entusiasmato tutti, Gil compreso che qui. Non sembra un po' così. Bellissima, è stata una cosa incredibile. L'idea di questo riff, di questo, questo suono, di questo momento, come è venuta, Domenico? Volete la verità? Dimmi. Caso. Ah, per caso. Domenica scorsa. La domenica scorsa è andata. In realtà, sì. Se lo ascoltate da CD, ci sono gli archi anche su sì. Questo. Sì, dai, ci sono gli archi, un sacco di errori. Esatto. Invece abbiamo detto, ah, vediamo. Abbiamo invitato esce. Della bella gente stasera. Abbiamo invitato della bella la gente. La verità è che il mio secondo grande amore sì. È Enya. E lei usa spesso questi sì, archi, sì, questi pizzicati. È vero. Sì. Con una gran bella donna. E per quello che sono io ancora single. È una dichiarazione diretta questa. Wikipedia. Enya, se ci stai ascoltando. Enya, se ascolti Blu Radio dal tuo castello sulle Dublino. Che è della famiglia di Clannad, come tu. Come sono stato quest'anno alla locanda dei Clannad, ho fatto la foto davanti. Ah, sei stato perché là. Era chiusa, aprono le 6 del pomeriggio in Irlanda i pub. Ah, ok, ho capito. Quindi perché Enya fa parte della famiglia Clannad praticamente. Ascolto tantissimi Clannad. Anche se poi il successo mondiale che lei ha avuto decisamente è andato oltre l'Irlanda, assolutamente. Sì, sì, sì. Ma sono soprattutto gli arrangiamenti che mi affascinano molto. E questo pezzo che tu hai iniziato, che hai arrangiato, possiamo dire che aveva un parallelismo con Rinocco Flows. Si sente un po' qualcosina, sì, qualcosina. Gli ho proposto una marea di volte di fare Orinoco Flows, ma non la vogliono fare. Ah, perché non la vogliono fare? Io lo volevo fare col pianoforte, una cosa più rock, ma non la vuole fare. Ah, e lui prova. Perché dicono che è troppo mainstream, ma in realtà nessuno la fa. Ma non puoi farla in questo momento. Provate. Dai, provate un secondo. Non sanno gli accordi. A parte che non so gli accordi. Comunque Enya non rientra nei miei gusti musicali. In ogni caso, questo era un pezzo molto bello. Folk, ma non è neanche folk, è un'invenzione tua praticamente. Praticamente è un pezzo che narra una parte di storia, che ci riguarda anche piuttosto vicino, che riguarda il 1861, il famoso Unità d'Italia, la spedizione dei Mille. Ci sono internet, un po' dato la possibilità di sapere tante versioni differenti della stessa storia. Certo. E questa ne prende una particolare visione, ma dalla parte dell'impero borbonico e non del... Ci siamo immedesimati un po' dall'altra parte. Anche poteva essere anche una danza borbonica questa. Anche volendo, a me piaceva questo senso di decadenza che comunica, perché sostanzialmente lì è un impero che aveva avuto delle grandissime innovazioni, pochi certo. Però lo sanno, perché si preferisce magari o a sentire, però sostanzialmente il fatto di internet, che adesso come adesso vari video su YouTube che spiegano delle verità comunque differenti. A proposito di questo, tempo fa, l'anno scorso, Mimmo Cavallo, che è un musicista, ha fatto delle cose veramente belle. Ha fatto una rock opera. Ma anche Edoardo Bennato, è un genio Bennato che ha parlato dei... Effettivamente pochi sanno delle cose, purtroppo. Tipo, cioè, praticamente ci sta solo la storia in una certa maniera. Sì, tipo il fatto stesso che 15.000 borboni sono stati trucidati a Fenestrelle, vicino a Torino. Certo, certo, è verissimo anche questo. Sono stato a Fenestrelle. Sei stato a lei? Benissimo, questo è un pezzo molto bello che è piaciuto moltissimo qui alla redazione. Spero grazie. Anche quelli, grazie a tutti. Anche qua posso dire che ci ho messo del mio, perché il ritornello, c'è un cambio di tempo doppio, quello lì è preso ancora da... E te l'ha accettato, Domenico? Anche questo me l'ha accettato. Ma io accetto sempre. Gli è piaciuto? Sì, no, dimmi. No, niente, ha piaciuto anche a lui, quindi anche stavolta mi ha lasciato cambiare un po' i ritmi alla canzone. Io dico sempre, se avete delle idee, portatele. Dal vivo, adesso siamo dal vivo in acustico stasera qua dentro, 22:52, quindi è assolutamente in diretta. Davanti al pubblico, questo pezzo, se lo fate o come lo fate o come lo farete? Allora, l'abbiamo già fatto qualche volta, l'ultima volta sì, l'abbiamo fatto al Latte Pio di Brescia, che è un locale all'interno di un concorso, e sì, l'abbiamo fatto ancora con gli archi. Con archi e pianoforte. Questo. Entrambi, perché lui porta due tastiere. Sì, gli archi campionati praticamente. Esatto, attraverso. Sempre chiaramente gli archi campionati. Ho visto che ha avuto successo questa versione similgotti. Dopo la useremo in futuro. Perché purtroppo il discorso che dicevano i ragazzi, vorrebbero, il loro desiderio sarebbe di portare gli archi veri, ma è una cosa improponibile. È difficile molto trovarlo, difficile, esatto. Trovare quelli che suonano. Anche trovare quelli che suonano. Però anche si trovano. Mancano quelli che suonano. Le frecce si trovano. Sì, ci sono tutti. E comunque probabilmente le prossime versioni live saranno fatte con questo pizzicato. Bello pizzicato. Un po' più, non so se dire innovativo, comunque di tendenza attualmente, visto che c'è la Gotti prossima che sarà una cover di Enya. Dimmi, scusami. No, la prossima sarà una cover di Enya, mi ecco, sa. Non esageriamo. Si comincia sempre così. Non sono mica d'accordo su Enya e loro due, assolutamente. Nonostante tutto, tu che sei andato... È un genio quella donna. Nonostante che sei stato in Irlanda... Tanto è sposata. Aia, pare. Ha creato delle armonie strepitose. Hai sentito cosa ha detto? È sposata? Pare che sia sposata con il suo Davvero? Produttore. Se no metti le cuffie. Ai. Ma su Yahoo Answer in inglese era scritto così. Sono andato su Wikipedia in inglese, è stata cancellata la cosa perché non l'ho più trovata. C'era il link. Magari. Ah, questa cosa. Però non. Enya, se ci senti, smentisci. Di che non sei sposata, che Domenico è libero nel caso. Benissimo, 22:53. Adesso sentiamo. Siccome abbiamo parecchi pezzi live, facciamo un altro pezzo live, visto che ci ha invogliato moltissimo questa danza alla Enya, tra virgolette. Dimmi, cosa fai, Domenico? I've got the news. Pezzo nuovissimo, assolutamente una new entry, mai per noi. Fatto dal vivo, mai sentito da nessuno, solo da noi adesso, solo è un'esclusiva per voi. Bene, molto bene. Speriamo siamo molto, che siamo molto contenti di questo, che esca qualcosa di positivo sicuramente, dai. Pronto? Vai. Some bad news for you to feel all your shyness. It now seems that you were the sick and tired for days, when all your mask has fallen into this veil of tears. And things are complicated when you wanna save all, and what seems useless suddenly worth more than gold, and all your little quicks are not enough to save the air. I've got some bad news now for you to say. We'll be useless to pray. You look into the sky searching some answers take away. But your alarm is ringing and no one wanna sing. I've got some very bad news that you can't send back to me. And your sky is broken, everyone's in fallen. Media shows your faces and we've got the news. No hope of your meanings, epic faithful feelings. Time is running out for you but we've got the news. I've spent my days to find solutions to this crisis, but seeing that nothing could fill all this black hole in us, that every money trick financial has dug in our souls. And news for us are now so difficult to believe. We just only that the world stopped for a moment to show in patches on injury made of madness. I've got some bad news now for you to say. We'll be useless to pray. You look into the sky searching some answers take away. But your alarm is ringing and no one wanna sing. I've got some very bad news that you can send back to me. And the sky is broken, every road's in fallen. Many shoulder faces and that we've got the news. No hope for your meanings, epic face for feelings. Time is running out for you but we've got the news. Posso sottolineare due cose musicalmente, non so se siete d'accordo. Voi, nel grande amore, sembrava un musical questo qua secondo me, quindi un po' il fantasma del palcoscenico, un po' gli Sparks. Gli Sparks era un gruppo americano che aveva un grande successo in Germania, in quello di Kimono My House. E gli Sparks erano solo in due, però voi siete in tre. Però la voce di Daniele in alcuni momenti declamava e non cantava, quindi era un musical. Cosa dice? Allora, posso dirti, dimmi, dove sta? Io gli Sparks non li conosco. Non li conosci? Non so se li conosce Domenico, se si è ispirato lui. Gli ho sentito parlare ancora, ma non se li conosco. In realtà, quindi siamo estranei. Però il musical sì, secondo me il musical sì. Però devo dirti la verità, l'intro, io sono anche un grande appassionato dei Police, l'intro richiamava e richiamava un po' per i Breath You Take. Però proviamo a sentirla un attimo. Cosa? Proviamo a risentirla un attimo. Dai, dai, fai un'altra volta l'intro. Sì, sì, non so le parole, le invento. Durante le prove ci canto sopra. Provo. Vai. Vai. No. breath you take. I'll be watching you. È una concessione poetica, dai, possiamo dire questo. Ah, diciamo che purtroppo l'effetto è lo stesso per quello. Sì. Purtroppo devo deludere le vostre aspettative. I got the news ha un andamento cadenzato, perché praticamente parla del fatto di questa fame di notizie di questi telegiornali. Ed è stata ispirata a un disco che è The Visitor degli ABBA. Può darsi, no? Vedi, assolutamente... è tutta un'unione di più generi che ne fa saltare fuori uno che è vero, non è vero. C'entra, diciamo. E tu suonavi la chitarra come fosse un basso, praticamente. Diciamo un po' stoppato, un po' alla Andy Summers, è diciamo. Andy... Lui la po'... prende alla Police. Io come l'ho, l'ho concepita, come ovviamente, Abba. Soprattutto una canzone che si chiama... mi viene in mente il nome. C'è quel video che c'è praticamente in mente Agneta che passa tutto il tempo per negozi, mi sembra che si chiama. E comunque... Head Over Wells. Da questo... Però il musical ci sta bene. Abba più Police viene fuori. Ma il musical ci sta bene. In ogni caso il musical, ripeto, ci sta bene. È un musical. Secondo me sì. Grazie. Tu potevi cantare come musical, perché più che cantava, ripeto, declamavi il pezzo in alcuni momenti. Poi lo hai cantato, ma più non lo declamavi. Cioè lo praticamente, come traducessi una poesia, declamavi una poesia praticamente. Io la vedo così, la sì, sento così. Sì, diciamo... Anche seguendo il testo, essendoci anche molte parole, era un po' anche obbligato. Era narrativo, diciamo, era una narrazione più che un cantato. Poi chiaramente il cantato si è sviluppato. E beh, era molto divertente, non solo sia divertente per lui, scusate, ho dato un colpo al microfono. E come suonavi, proprio davi un colpo secco, esattamente. Distruggevi è la cattivo, tastiera, è cattivo. È cattivo. È il cattivo quando suono, non sono così. distruggevi la tastiera. E quindi era proprio così, doveva essere volutamente così. Invece arpeggio sono il good boy del gruppo. Non so, Shinota. Tu sei un good boy, lui è un bad boy. Io sono un medium boy. Ah, tu medium boy. Ok, benissimo. Adesso Sergio lo sa, i nostri ascoltatori lo sanno, alle 23:23:1 facciamo un giochetto, vero Sergio? No. Sì, scusa la voce. Noi non siamo conoscenza. Sì, sì. Il solito gioco. 5, tanto sono in 3, 5, 10, 15. Sì. Adesso Sergio vi dice istituzionalmente che gioco è. Adesso, i 5 dischi che portereste in una isola tropicale. E non si vale può copiare. Esatto, non vale copiare. Oh, parto domani. Cacchio, non li so i nomi. Allora, il primo che porterei è Grace di Jeff Buckley. Ah, come mai hai citato Jeff Buckley? Perché Jeff Buckley sta un po' alla base. Prima che ci fossero i Radiohead, prima che ci fossero i Muse, c'era la voce di Jeff Buckley, c'era anche le melodie di Grace. Prima. C'erano dei. Siamo con i 94. Sì, sì. Anche quello suo papà prima. Anche. Che aveva un DNA, però Jeff Buckley, sono d'accordo. Grace. Ma io l'ho sparata. E poi un altro che mi porterei è Skylarkin degli XTC. Ah, ci fermiamo un secondo. Perché dunque in 10 anni forse sei stato il secondo che ha citato gli XTC e Skylarking, disco meraviglioso con degli arrangiamenti di archi che fanno prodotto piangere. Da Todd Rundgren, era prodotto da lui. Tra l'altro la leggenda vuole che Andy Partridge abbia litigato con Todd Rundgren, ma poi dopo 10 anni abbia detto è stato uno dei dischi più magici che abbia mai concepito. È vero, perché Todd Rundgren era un personaggio e Andy Partridge è se un altro Andy personaggio. Partridge mi sente, vi prego, rimettiti insieme a Colin Moulding, anche se vai con un'etichetta giapponese, ma sforna un altro disco. Lo so, ma non hanno trovato, non riescono mai a trovare un'etichetta per loro. Sono tanto bravi, troppo bravi, troppo perfetti. Hanno avuto un problema con Apple Venus, hanno voluto cominciare a pubblicare tutte le cose che hanno lasciato pubblicare la Virgin, dopo che sono messi a litigare e hanno fatto lo sciopero per 10 anni. È vero, XTC è un gruppo straordinario. Skylarking, dimmi. E dopo ancora metterei un altro degli XTC, Non Such del 92, altro disco meraviglioso. E non dici niente del primo disco, quello doppio? White Music? No, quello doppio, quello dove English Settlement, esattamente. Anche quello, bellissimo. Però lì era forse stato concepito per essere suonato dal vivo, mentre Skylarking invece no. Ma Skylarking c'è il genio di Todd Rundgren, c'è poco da fare. Ma sì, sono anche delle melodie spettacolari, tipo... non lo so, io parlo di Another Satellite, oppure una che mi piace un sacco, che balla For the Rainy Days. E per chi lo volesse comprare si trova in offerta a buon prezzo, sì, quindi sì, bisogna acquistarlo assolutamente. Compratelo lo potete trovare su internet, comunque lo potete trovare su Amazon anche a pochi soldi. A pochi soldi. continuiamo ancora, se ne manca ancora uno, mi pare, Sergio. Sì, era 5? Sì, ne avevi trovati insieme gli XTC. Non ho più tempo di me per pensare. Regatta de Blanc dei Police, perché abbiamo citato prima i Police. Police, secondo me, sostanzialmente Regatta de Blanc è una delle cose più belle che è successa al rock negli anni 80. I Police, vedere questi tre personaggi, perché erano tre personaggi, con Copland che covava le ritmiche, non si sa come faceva, da dove le tirava fuori. Sting apparentemente sto facendo una parolaccia, non dirla, va bene, lo stesso. Cioè, apparentemente che se ne fregava e intanto che ti sciorina giù in certi giri di basso Summers, che vabbè è un po' l'orfano in quella cosa lì, perché si è un po' schiacciato in queste ruote, ma fa coedregiamente sul lavoro. E l'ultimo disco, perché sennò loro non parlano più, è, adesso devo tenere fuori uno straveloce, un disco dei Manic Street Preachers che a me piace molto, che è quello che hanno fatto appena che si chiama Everything Must Go, che è del 94, ed è un film in cui è un disco, sono ancora anche lì arrangiamenti di archi veramente belli creati a Di Vieringa, ed è un disco un po' sul dolore perché li abbiano appena lasciati Richie Edwards, che si era suicidato. È un gran bel disco e ogni volta che lo sento era quello con Motorcycle Emptiness, mi pare. No, quello è Generation Terrorist, quando facevano ancora roba punk, e quello lì è quello che c'è su A Design for Life, che è una canzone veramente bella. A te? Vuoi parlare a te, Daniele? Sarò fantasiosissimo. Bene. Prima volevo chiedere, un Greatest Hits vale come un CD o come... Cosa dici, Sergio? Sì, abbiamo già... sono già state dette, raccolte, cose, storie. Allora, sì, parto sì. Con il Greatest Hits dei Queen. Vedi caso. La Platinum Collection, tranne il terzo, che è praticamente inascoltabile. Che è un po' il... Summa. Cioè, io ho snobbato la musica praticamente fino a 12-13 anni fa. Poi ho scoperto i Queen... Ecco. Mi è stata regalata la Platinum Collection e da lì ho iniziato a appassionarmi. Secondo CD, Origin of Symmetry dei Muse. Vedi caso che i Muse arrivano sempre, a partito. Che è il CD che mi ha fatto innamorare dei Muse, Newborn, Plug-in Baby, eccetera. Eccetera. Terzo, sì. A Night at the Opera dei Queen. Già citato, però... Qui c'è un conflitto di interessi, hai già citato i Greatest Hits di Queen, poi hai citato un altro disco un Greatest Hits. Ho citato i Greatest Hits, ma i Greatest Hits non sono niente della musica dei Queen. Niente. Night at the Opera. Night at the Opera, che è l'album con Bohemian Rhapsody, e altri Love capolavori. My Life, eccetera. Eccetera. Quarto, Absolution dei Muse. Ok. Dimmi. Quinto. Dimmi. I Queen. Io sono monotematico con la musica. Ho i miei periodi. Ho il periodo Queen. Quando mi stufo dei Queen ascolti Muse. Poi torni ai Queen. Quando mi stufo dei Muse ascolti Queen. E vado avanti. Sono un po' influenzato da questo, no? Abbastanza. Quindi quinto, Queen 2. Sto dicendo che non sapevo quale. Prendiamo Queen 2, che è un attimo più diverso da... all'inizio di carriera. Sì, forse. Sì, gli inizi sono i migliori. Esattamente. Allora, io sono sincero, di nomi dei CD ne so veramente pochi. Dimmi, hai su. Perché non dico che scarico le canzoni. Non si può. Perché le compro. Le compra tutte su iTunes. Le compra. A 99 centesimi su Amazon. E ho scaricato tante canzoni da Amazon a pagamento. Hai pagato anche di più. Anche di più. Sì, sì, CD sì. 20 euro anziché 15 a singolo, no, a canzone. Diciamo i CD che conosco, che comunque mi sono comprato proprio dal vivo, non da internet. Sono sicuramente Outlaws d'Amour dei Police, che lo preferisco di gran lunga a Regatta de Blanc. Perché secondo me proprio ha più vita, è più, anche più tendente, se vogliamo così, al punk. E Copland mette più energia nella batteria. Certo. Come secondo, io di solito vado a prendere i Greatest Hits. Mi porterei i Greatest Hits di Mark Knopfler, Dire Straits. Sicuramente. Cosa ne pensi del disco, scusate, il disco nuovo doppio di Mark Knopfler? Ne stava parlando appunto ieri Domenico, che mi ha detto che ha inserito proprio tutte le tracce che non è riuscito a fare con i Dire Straits. Mi sta dicendo cosa dici, Domenico? È così? Non lo so, io quello che ho letto io su Wikipedia, quando mi ero incuriosito, strano, Mark Knopfler fare un doppio CD, di solito fa sempre sette canzoni. Sì, beh. sembrava, ancora tutta sta vita. Sembrava praticamente che avesse messo dentro nel CD, da quello che ho capito, tutto quello che avrebbe potuto suonare come Dire Straits e non come quello che ha fatto. Si chiama, se non mi sbaglio, Privatering. Sì, esattamente. Perché è una cosa molto personale e quindi... Ecco, ho avuto anche io il mio periodo proprio fisso su Mark Knopfler. Infatti i miei amici mi hanno regalato il doppio CD Greatest Hits di Mark Knopfler con il libro. Eh beh, insomma, molto bello. Personaggio pesante. È un personaggione, sì, sì, un sì, mio sì. idolo. Dopo, un altro mio idolo è Paul Gilbert, che era ed è tuttora il chitarrista di Mr. Big. Quindi mi porterei anche un Greatest Hits. Dove sono andati a finire i Mr. Big? I Mr. Big si sono riuniti nel 2009 con lo storico Live at Budokan e ne hanno fatte di ogni, lui e Billy Sheehan. Adesso cava, abbassa i livelli. E adesso devo abbassare i livelli perché il mio primo chitarrista preferito, che è all'età di 14 anni, era Tom DeLonge dei Blink 182. Beh, cosa c'è di male, anzi? E infatti pacchettaro, i miei colleghi mi chiamano spesso DeLonge. Ah, DeLonge. È un soprannome che mi sono meritato. Va bene, vado anche abbastanza fiero. E il loro CD non saprei quale scegliere, a me piacciono tutti, visto che sono partito con quelli. Quindi porterei i Greatest Hits, che ci sono tutte le più belle. E poi? Me ne manca ancora uno. Manca ancora uno. Cavolo, sì. Qua la scelta si fa ardua. Portiamo uno dei Rush, dai. Che non li abbiamo ancora citati stasera. Siccome sono un invasato comunque di sentire i bei pezzi di batteria, mi piace molto lo stile di Neil Peart, che reputo uno dei migliori batteristi attualmente esistenti. Quindi Rush, assolutamente. Assolutamente i Rush. Quando sentiamo Neil Peart, rimpiangiamo di non avere un batterista. Vabbè, ma come Neil Peart ne nasce erano uno in ogni tre, tanto. Sono in tre i Rush e fanno un casino tremendo, ma sono in tre, cazzo. Lo so. Però va bene, quando arriverà il batterista abbiamo fede. Questo batterista comunque è molto interessante. Ma vi sente il batterista stasera? Rush. Sì, ci sta ascoltando. Bene, salutiamo il batterista allora. Ciao. Ho presunto tanto. Oh, ti aspetto. Ciao Steffi. Non bidonarci. Non si fanno nomi, lui sa chi è però. Lui sa chi è. Ok, Sergio, cosa dici? Un altro pezzo dal disco? Mettiamo un altro pezzo dal disco così intanto si riposano. Vedo qui la traccia numero 4 che è The Whispering Clouds. Ne parliamo dopo magari. Sì, va bene. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Whispering clouds over the hills begin to dress of the moon, and so the stars for a long moon seem to lose their brightness. Darkness on earth spread a mantle now, and the world prepares to rest. The whispering clouds then begin to sing, to bring all the men in their dreams. Close your eyes, reach all the land of your dreams. Forget your fears and your doubts. Whispering clouds that now run over the hills, we'll watch you sleep in this land. Whispering clouds cover the valley, but soon fell on dreams, only a flock of doubt. And so the sun slowly fading, and the night seemed to last forevermore. But the wind came to dispel your fear, take away the cold from your heart. In the silence which is a prelude to rest, a lemon as old as your tears. Sleep, close your eyes, reach all the land of your dreams. Forget your sorrows and sins. Whispering clouds that now run over your thoughts, we'll guide your dream in this land. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Breve, 2:18 mi pare. Sì, esattamente. Sì, però sì, intensa, breve ma intensa. Abbiamo scelta noi della redazione, cioè Alberto e il sottoscritto, per dare il lancio al disco praticamente. È piaciuta moltissimo questi archi. Grazie. Hanno da una certa propulsione, da un certo stimolo. È una canzone che piace comunque. Piace anche immediatamente, entra allora, subito dentro. È per questo che dal vivo comunque abbiamo deciso di farla un po' più lunga con un intro. L'intro lo fa Domenico. Lo facciamo insieme. Ah, lo fate insieme. Insieme. Sì. E la voce e di... c'è anche un outro comunque. E la voce di Daniele quando entra allora nell'intro proprio. Dopo qualche secondo, più di un secondo, qualche minuto. C'è un pezzo proprio strumentale. 45 secondi. E dopo parte lui. Parte lui. Esatto. L'abbiamo fatto perché appunto tanti hanno detto è molto bella, però cavolo, sono solo due minuti e venti. Ma 2 minuti e 20 perché l'ispirazione era concentrata probabilmente per quello. O no? O perché doveva durare 2 minuti e 20? Diciamo, stava bene 2 minuti e 20. Stava bene corta. Ma con l'intro, Daniele, che dici? Non è presente qui, per me è perfetta. È perfetta, con l'intro. Perché non è stato messo nel disco, nell'intro? Perché è stato pensato dopo. Ah, semplicemente quello. Semplicemente, dopo tanti che dicevano, ma è corta, anche noi a provarla ci metteva un poco. Cavolo, ci sta bene qualcosa in ma più. Ma quando avevate deciso di incidere questi pezzi? Dopo, quando il disco è uscito... Avete avuto qualche ripensamento? Sì. Tanti ripensamenti? Sì, tante cose. Poi noi infatti al live abbiamo cambiato TKOS. Come la canzone precedente TKOS, anche lì è stata cambiata. Cioè, tanti pezzi sono stati comunque un po' cambiati. Perché il disco si doveva chiudere praticamente, non c'era tempo. Non c'era tanto tempo per farlo. Anche dal punto di vista economico. Poteva solo quel giorno lì. No, forse un po' meno. Sì, sì e no, sì e diciamo, no. Ne avevamo bisogno. Poi avevamo già concluso così e abbiamo detto va bene così, poi continuare a suonarle, le proponi anche dal live, grazie al CD comunque abbiamo potuto suonare a live a tanti concorsi. È quello il problema, giusto? E dopo che li fai ti accorgi. Cioè il disco serviva anche per introdurvi. Per sì, mettere a confronto. Anche perché le prove servono anche per provare nuove versioni, per provare magari, e quindi magari si vede alcune cose. A me piace per esempio velocizzarle durante le prove e poi io quando facciamo le prove impongo sempre di suonarle tutte dalla prima all'ultima. A proposito dei concorsi, se abbiamo citato precedentemente, possiamo citare anche quello del marzo di quest'anno, 2012, avete partecipato al Ponte Sound Contest di Cremona dove c'era, esatto. Dove c'era praticamente una giuria presieduta da Ruggeri. Esatto. Come è andata là? Avete superato le preselezioni di 50. Esatto, è quello che stavo dicendo prima, il giornalista che ci ha affibbiato. Ah, è stato lui. È stato uno di questi. Diciamo abbiamo superato prima le selezioni grazie comunque al CD, erano una cinquantina di gruppi, ne passavano 16 divisi in 4 serate e dopo abbiamo passato la serata, praticamente erano 4 gruppi ogni sera e ne passava solo uno a sera. Bravi, cosa avete eseguito? Vi hanno dato la possibilità di fare qualche pezzo, non so, tot minuti, com'era il discorso? C'era quanto era il limite di tempo, Daniele? Mi pare un 20 ma minuti. Con gli strumenti veri e propri? Sì, proprio dal vivo. Dal vivo, assolutamente. Ci siamo dovuti andare a Cremona. Avevamo creato una specie di cosa in cui praticamente tra un pezzo e l'altro, quando Daniele presentava le canzoni, facevamo una specie di intro orchestrale. Ah, bello. Di modo che facevamo che quando tu guardi, vedi un concerto degli AQBE, sai che ogni canzone avrà un filo conduttore, una con l'altra. Quindi Daniele prima gli spiega i pezzi. Anche perché... Solitamente sì. Abbiamo provato, abbiamo visto che quando c'è, quando c'è sotto la musica le parole hanno un altro effetto. Esatto, diciamo non li ha spiegati così nel dettaglio come facciamo con voi, però una farinatura, la gente deve sapere momentaneamente deve sapere che cosa stiamo parlando, tutti cioè, quelle due parole che magari servono anche, non so, magari lui deve di solito facevamo questa accordare la chitarra in un modo, noi mettiamo la musica, spieghiamo, intanto passa in secondo piano il fatto invece di star lì fermi, cioè Domenico faceva questa introduzione, facevo quasi introduzione, vediamo com'è. E qua sopra uno ci parla. Ciao a tutti, noi siamo gli AQBE, bla bla bla bla bla bla. Questa è We Forget, la V per Vendetta. Bella, interessante. E parte. E via. E via così. E via dicendo. Quindi probabilmente ha colpito la giuria. Ha colpito anche la giuria perché gli è piaciuto molto il genere, comunque erano interessati a ascoltare. E gli è piaciuto molto l'inventiva, le novità della canzone. E hanno deciso di premiarci mandandoci in finale davanti a Enrico Ruggeri. È stata comunque una bella esperienza. E tutto serve. Siamo stati molto emozionati perché comunque quando siamo saliti sul palco lui ci ha fatto delle domande. E cosa vi ha chiesto? Da dove venite? Che musica fate? Da quando è che vi siete conosciuti? Comunque così. È sempre un personaggio. Io ero lontano dal microfono, non potevo rispondere. Ah, ero lontano. Ha risposto un po' io e lui. Sì, ah, ho capito. Io e Daniele. Quando ci ha chiesto qual era il nostro punto di riferimento, cosa hai detto, Daniele? No, io ho detto nessuno. Ma qual è il vostro punto di riferimento? Nessuno. Ma faceva le domande tipo X Factor, praticamente. Esatto. Sì, era un interrogatorio, praticamente. Benissimo. Però non siamo riusciti a fare la foto insieme. È scappato. Sempre la prossima volta, dai. Io l'ho salito nel dietro le quinte, sono riuscito. Ah, sì. Prima delle ma da solo, non con noi. Non conta. Ok, 23:19, 23:20. Adesso suoniamo ancora un altro pezzo, dai, che cosa? Adesso suoniamo The Bottom of the Well. Ok. Spiegheremo dopo. Sì, com'è l'arcano del pezzo. 23 e 22 minuti, siamo a buon punto della nostra serata Rock Wave Live del mercoledì, questa sera con gli AQBE da Brescia. Maurizio. Un pezzo frenetico, Domenico, tu proprio danzavi, ti muovevi e c'è poco spazio, proprio accarezzavi, sbranavi nel vero senso del termine la tastiera. Dimmi. Sì, di solito questa è una canzone di speranza, The Bottom of the Well, a parte che è il fondo del pozzo, si dice quando si tocca il fondo del pozzo non si può che risalire, certo. Qualcuno dice scavare anche più a fondo. Qualcuno. Noi invece speriamo di tornare su. Speriamo di tornare su, perché non siamo neanche il fondo del pozzo, però il titolo viene sostanzialmente, lo dico molto chiaramente, visto che sono un fan dei giochi della saga di Zelda, della Nintendo, c'è proprio un livello cattivissimo tra l'altro, perché è tutto, questa cosa non la sapevano neanche loro, che si chiama The Bottom of the Well, il fondo del pozzo, in cui praticamente è un livello particolare perché ci sono dei muri, delle cose che non si vedono, delle cose invisibili, eccetera. Qual è? Nel primo Ocarina non of Time. Parliamo di videogiochi. E vabbè, parliamo di giochi del 93. E così l'idea è partita da questo. Era molto frenetico. No, sostanzialmente l'idea era quella di dare The Bottom of the Well. Praticamente è una canzone che parla del mondo. Siamo arrivati a un livello, in un livello del mondo sostanzialmente, in cui sembra che si sia toccato il pozzo. Però, come ho detto prima, stanno facendo dei gesti strani perché sta andando in modalità. Parla solo lui dopo. Ecco. Dai, parla un po' tu. Parla della speranza. Praticamente, come a me interessa anche dal punto di vista musicale, un pezzo decisamente frenetico, il discorso del punk con le tastiere. Ma all'inizio questo era un pezzo lento. Qui è cambiato. Qui è cambiato totalmente perché abbiamo dovuto cambiarlo perché qualcuno voleva fare un assolo. Tutto a pianoforte, sì, però un pianoforte è molto. No, all'inizio aveva un piano. Aveva un piano normale. Lento. Dimmi, scusami. Era un piano. È un grand piano, un piano. Un piano lento. Invece qua sembrava un piano scatenato, cioè scatenato. Proprio una diciamo che abbiamo deciso insieme, anche lì era un po' troppo. Un'accelerazione totale. Siamo stati investiti da questa scelta. Un'accelerazione totale. Questo è assolutamente un pezzo dal vivo. E infatti ci sono anche dei cambi che ho proposto io, come a metà il cambio di tempo in cui stacca, che c'è una specie di ponte, un mezzo assolo, se così vogliamo chiamarlo. Sì, diciamo un assolo. Ma proprio un assolo. E che cambia tempo e anche qua si nota la nostra vena un po' progressiva. Sì, il cambio sostanzialmente, il cambio di tempo dà anche più respiro al pezzo, se no praticamente ti scappa via da sotto le mani. Ecco. E poi abbiamo notato anche l'urlo, quasi l'urlo di Daniele finale, proprio un urlo proprio. Poi si mette le mani davanti vicino alla bocca, proprio così, nel senso proprio. Allora, ti ricordi The Curt of Kisson Cream, quella la copertina? Non è proprio così, però c'è un urlo, cioè anche tu fai un urlo. Sì. Tieni presente l'urlo di Manchester, se non hai mai visto The Curt of Kisson Cream, è uguale. Ok. E tu citavi il prog, e qui c'è un po' di prog, assolutamente. Però è qua perché per esaltare anche un attimo di più le sue doti vocali. Ma è giusto. Visto che l'ultimo urlo deve durare le due battute finali. Ci sta dentro, ci sta dentro molto sta. Bene direi. Quindi l'abbiamo così. Poi noi ci proviamo a mettere le seconde voci, cioè i e cori. Poi? Io dico che il sesto disco che porto sull'isola non è un disco ma un MP3, quindi ci sta nella valigia, ed è Selling England by the Pound, dei Genesis. C'è un urlo anche là, ma un urlo molto delicato, non è l'urlo di King Crimson, credamente, è diverso. Benissimo, 23 e 26, quasi 27, abbiamo ancora circa 40 minuti per danzare verso la mezzanotte. C'è ancora una traccia dal disco. Cosa dici, vuoi che lo sentiamo? Traccia. Ma sì, anche sì. Sì, sì, sì la sentiamo, sì. Dai, la traccia del disco. Che la traccia è? Numero 5 che è, aspetta che non ci vedo, Wasted Chance, eccola qua. Ok, la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Rockwave, l'onda del rock. You don't really have nothing about all this shit that I've endured all this time, a pressure on me. All the tricks and cheating, I really wanna spend as I am. Wishing to continue to hope in you, wishing to continue to hope. Now it's better for you, stay away from me. I don't wanna hear you talk, and you should stay away. As I said, I have given you a fucking second. Now it's better for you, stay away from me. I don't wanna hear you talk, and you should stay away. As I said, I have given you a fucking second chance. Impossible now, it's your try, and I'm so useless to push you. Even if your ego has decided that this better to change. Now that my order is really spent, and I saw your opportunity, now just sit and reflect here about your mistakes. Now it's better for you to stay away from me. I don't wanna hear you talk, and you should turn up as I decided I have given you a fucking second. Now it's better for you to stay away from me. I don't wanna hear you talk, and you should turn up as I decided I have given you a fucking second chance. From me, I don't wanna hear. should turn up. I decided I have given you a fucking second. Now it's better for you to stay away from me. I don't wanna hear you talk. And you should turn up. I decided I have given you a fucking second chance. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ultima mezz'ora con Jacubi e Maurizio. Sì, c'è una tastiera predominante nel senso positivo del termine. Noi vecchi, di vecchia scuola, di una certa età, io che ho una certa età, ricordavo molto Keith Emerson, non dico dei Nice no, ma di Emerson, Lake and Palmer sì. E una cosa positiva a Domenico, non c'è niente da dire, avvicinati sì, al microfono. L'ho detto prima a te Maurizio, il sesto disco in MP3 che porterei è Trilogy, è Trilogy di Emerson, Lake and Palmer, perché Keith Emerson è un grandissimo musicista. Tra l'altro ha avuto anche del piuttosto sfortuna ultimamente, sì. Ma fortunatamente si sono rimessi insieme, hanno fatto dei concerti meravigliosi, gli Emerson, Lake and Palmer, e sono contento per lui perché ha avuto veramente una brutta tendinite. Certo, è vero. L'ho visto in un video su YouTube che suonava in Giappone, cercava di combattere la malattia e da una parte ti si è stretto il cuore, poi a rivederlo a Londra col concerto che ha fatto l'anno scorso, se non mi sbaglio, no, forse due anni fa, è proprio, l'ho rivisto la tigre che metteva i coltelli nell'organo Hammond. Nell'organo Hammond, famosi coltelli dell'organo Hammond, che dobbiamo sottolineare che Greg Lake, a proposito di King Crimson, la prima formazione dei King Crimson, cioè Greg Lake, la chitarra di Greg Lake, e, caro Stefano che mi guardi, la chitarra di Greg Lake, e Palmer per me è un grandissimo batterista, c'è poco da fare, è un grande batterista, erano tre grandi musicisti. Se devo dirti la verità, non mi sono ispirato a loro per questo. Non ti sei ispirato, diciamo, sì, ti sei ispirato. Piano, comunque, il piano è molto emersoniano, più la tastiera che il piano. Io l'ho pensata come Deep Purple, se devo dire. John Lord allora, che se n'è andato purtroppo Lord, anche lui. Sì, da poco. Da poco, purtroppo. Qualche mese fa. Esattamente. Sì, è più pensata a quella, visto che la canzone l'ho scritta io. Di Purpleiano sei il nome. Non sei metallaro, cioè metallica. Giustamente. La verità. Dopo sì, il blues mi intriga particolarmente, quindi anche un debole per i Deep Purple. Anche i Mr. Big, anche se sono un po' più sul metallari, comunque stavano dentro con il blues. Ecco, siccome questa canzone qua esce un po' dai nostri schemi, diciamo. Assolutamente esce, però nel senso positivo. Sì, volevamo dare qualcosa di diverso. Ma bisogna sempre creare qualcosa da allontanare, esatto, dagli schemi. Se no, che infatti io gli ho proposto a Domenico, cosa ne dici se facciamo in questo modo. Ho trovato questo organetto qui Progressive che praticamente dà l'impressione della ritmica. Anche questo low cost, però è sempre low cost, anche se le cose sono low cost sono utili. Il testo parlava di, io di solito nei miei testi parlo d'amore che riguarda me solitamente, anzi sempre. Diciamo che questa storia mi aveva devastato dal punto di vista mentale, comunque era stata dura. Ho deciso di scrivere questa canzone che si chiama Wasted Chance, cioè occasione persa, però comunque non è da parte mia, è occasione persa da parte di quella ragazza che ha scelto male comunque. Beh, quindi non, cioè, anche se devo dire la verità, poi è tornata a chiedere una seconda possibilità. Cioè non è una vendetta, è solo un punto di vista, una presa di posizione e basta. E basta. E quindi serviva qualcosa di più cattivo forse, diciamo. E quindi questo organo ci stava molto. Era un organo cattivo, ma no, un cattivo nel senso col ritmo che dava. Dava ritmo, quello è importante. Keith Emerson dava molto ritmo nei suoi pezzi, decisamente. Anche Domenico dà ritmo ai suoi pezzi. E Daniele, che ritmo hai nei tuoi pezzi? Nei pezzi che canti, che poi potresti scrivere anche i pezzi te, anche se non li vuoi scrivere. Glielo diciamo sempre, anche se non li vuoi scrivere, Daniele. È arrivata io un telegramma dei Daft Punk, ha detto: non fatelo scrivere se non andiamo in pensione. Positivo. Non esageriamo. Questo è positivo. Bene. No, diciamo in base al ritmo io mi adeguo. Se la canzone è da cantare in un determinato modo più aggressivo, canto in modo più aggressivo anziché in un modo più tranquillo. Ma il pensare di cantare in modo aggressivo nasce perché hai sentito i provini del pezzo, oppure così, o per il testo che deve essere aggressivo? Questa l'ho cantata praticamente io così, un po' sapendo anche di cosa parla il testo, io mi adeguo. Certamente. Scrivendo in inglese comunque lui corregge un po' anche i testi, quindi cioè non sono, visto che Oxford, però ne sa bene l'inglese, Quindi cerchi di adeguare i pezzi, cioè di mettere a posto un po' il testo. Mentalmente lo traduce, comunque sa anche di cosa stiamo parlando, di cosa si parla, e dopo lo interpreta a modo suo. Magari noi gli diamo, non so se in mente una melodia, glielo dico, però poi sta a lui interpretarla. Anche qua l'ha interpretata in maniera perfetta. Vabbè, qua dobbiamo sottolineare, grazie Stefano, agli ascoltatori che questi pezzi fatti in versione acustica è difficile. Versione acustica è sempre più difficile che una versione normale, perché i musicisti si devono reinventare determinati schemi, non è così? È sì, infatti così. Questa qui dal vivo la facciamo con la Spinetta. Ecco, vedi, stasera la Spinetta non c'è. C'è questo. Ho usato Spinetta sintetizzata. Sempre Spinetta è in ogni caso. C'è tutto in realtà. C'è tutto, però. C'è, tu, c'è, ne, c'è niente. Non abbiamo, stavolta il suono della Spinetta non c'è, ecco. Vabbè che l'organo, che la tastiera fa tutto, siamo d'accordo, però insomma. Ok, allora sì, suoniamo un altro pezzo, dai, adesso sì, chiaramente almeno altri tre. Almeno altri tre, sì, giustamente Sergio. Allora, questo è ancora un altro pezzo nuovo. Nuovissimo. Sono tutti pezzi nuovissimi, quindi io e Sergio e Gil non abbiamo assolutamente sentiti una novità assoluta per questa trasmissione. È molto difficoltoso, soprattutto per la chitarra. Cercherò di non commettere errori. Mi paro subito prima di suonare. Il pezzo come si intitola? È una cosa che ha scritto lui. Si intitola Empathy. Empathy, ok. Time whispers what's coming, and what this dies in my arms. My moon is falling, I hope for fear to shine as my eyes are calling the shape of your soul. Everyone should leave their feelings, no, no matter if they hurt. You look so nice tonight, but really want to suffer like this. As well as transitions of this life, my strongly changing seasons will. The beating of my heart and it will have to mark a new begin for me. As the moon affects tides after you our lives, every moment with you, upset thoughts in my mind. Maybe springs in our souls in these great days of fall. Make so beauty your smile, light up the sun in your eyes. And time will running out for you and me. We're waiting for a new to rise from sea. I'm thinking of you in these lonely days, waiting for such an event, and an honor begins the time of sure reality. Instead of close the phone, I could listen to you for hours, but the words are wrong. I don't feel what I feel all alone, and I won't suffer like this. As well as transitions of these leaves, mark strongly changing seasons will. The beating of my heart and it will have to mark a new begin for me. As the moon affects tides after you our lives, every moment with you, upset and thoughts in my mind. Maybe springs in our souls in these great days of fall. Make so beauty your smile, light up the sun in your eyes. And time we're running out for you and me. We're waiting for a new to rise from Rock Wave, l'onda del rock. Empathy mi pare si chiamasse il pezzo. Adesso io voglio chiedo chiaramente sia a Domenico e sia a Stefano di ripetere le risposte che vi date fra la chitarra e la tastiera. Lui faceva una scala e poi rispondevi con una scala di chitarra. Vai. Nel ritornello. Prima parte, seconda, ok. 'A me è piaciuto moltissimo la scala delle due tra la chitarra e la tastiera, e chiaramente c'era anche la voce di Daniele, però mi è piaciuta moltissimo, è un pezzo che avevo mai sentito e sono rimasto attratto da sto momento qua. Come l'avete inventato? Visto che il pezzo l'hai scritto te. Rispondo io. Rispondi te. Allora, diciamo, io l'ho pensato, l'hai pensato subito. L'hai pensato tutto, così. Tutto il pezzo? Tutto il pezzo. Compresa la voce di Daniele, l'intervento della voce. No, la voce Daniele, di Daniele è stata pensata da Domenico. Perfetto, ho capito tutto. Dimmi. Allora. No, diciamo, allora, quando ho pensato al pezzo, anche questo deriva da mia esperienza d'amore, e quindi sono stato ispirato da queste, e mi è uscito, non so, ho provato praticamente un'ora, una sera, mi è uscito tutto perfettamente. Poi quando sono dovuto interfacciare con Domenico, visto che nel ritornello non dovevo sempre tenere la scala, perché poi lui parte in velocità, quindi ho detto, bene, io lì faccio la ritmica più veloce, raddoppio. Io l'ho trovato molto interessante l'idea di queste due scale, sia da punto di vista... La verità è che sostanzialmente la tastiera sulla strofa ha un po' poca vita, e allora mi faccio nel ritmo. Ah, ho capito. Ha voluto rifarsi lì e sta visto, molto bene. Quindi visto ho detto, che non dava problemi, ho detto lo teniamo. A me è piaciuta praticamente. Dimmi. Fa un bel cambio, perché tipo all'inizio del ritornello, quando c'è la voce che canta pieno tutti i pezzi, tutto il pezzo, è arpeggiata la chitarra e fa una scala, mentre la tastiera ne fa una simile ma non uguale. Poi verso la fine Daniele va più sul cantato, in lungo, e quindi sta molto bene le veroniche che fa Domenico. Quindi Daniele ha fatto l'intervento di par suo, senza, cioè il pezzo l'aveva sentito, però poi è intervenuto senza un vostro rimescolamento delle carte, assolutamente no. Ecco. Oh sì, c'è stato. Io non mi ricordo. So che Daniele, solo perché ha scritto il pezzo Stefano, è entrato in empathy con lui. Allora alla fine in empatia con me. Anche a me piacerebbe che facesse gli urletti alla fine dei God the News, ma... Sì, sì, perché poi lui interpreta me. Quindi mi è piaciuto. Vai in empathy. Questo pezzo verrà messo nel nuovo disco? Spero proprio di sì. Sì. Però sì, qua sì, non sì, so sì. se ci vuole bene una batteria. Ma no, secondo me no. Secondo me no. Infatti più pensato per l'acustico. È molto acustico, sì. Anche se però nella parte finale ci potrebbe stare la batteria. Potrebbe nella parte finale. Perché la scala dà un certo ritmo, le due scale contrapposte. È lui che decide, che fa la parte più vedremo. Difficile. È un'idea mia, assolutamente. Sì. Io la sento così. Noi ascoltiamo sempre i pareri di tutti. E lui, un bel urlo finale ci sarebbe bene. Anche qua? Sì, secondo me sì. Anche secondo me. Ma anche in A God of the New ci starebbe bene uno. Secondo me sì, perché la parte è un pezzo acustico, sì, però l'acustico e poi cresce, e qui ci sono i Buse che arrivano un'altra volta, secondo me. Io sinceramente mi sono ispirato a Tommy Emmanuel quando ho scritto questo pezzo. Sei molto raffinato con Tommy Emmanuel. Sì, infatti per quello che ho detto che avevo paura di farlo, perché è tutto arpeggiato, soprattutto l'intro. L'ho scritto io e tra l'altro lo trovo molto difficile da fare. Non so se l'ho fatto. È venuto bene. Io ripeto, è la prima volta, anche Gile e anche Sergio l'hanno sentito. A noi è piaciuto. Poi, chiaramente, questo mi fa piacere. Assolutamente. Poi chiaramente i rifacimenti. Nel disco, quando vedrete il nuovo disco, può darsi che sia cambiato il pezzo. Certo, assolutamente. Quello lì è solo Daniele non parla, non dice niente. No, sto pensando. Ah, sto pensando. No, il pezzo non è così. Senza batteria e senza batteria. Io però la batteria ti metterei un pochettino magari di alla fine. Magari alla fine, sì, sempre alla fine. Vuoi se posso spendere due parole sul testo, visto dai. Che ci sono, visto che l'ho scritto. È mezzo amore, mezzo poetico, diciamo. Ah, ok. Tante frasi sono comunque poetiche e basta, però comunque è empathy, perché comunque a me questa ragazza mi piaceva, ma non, non ho fatto niente. Diciamo, lei era comunque innamorata di un altro. Comunque era un'empatia. È perché un classico. Provavo le stesse sensazioni per lei che lei provava per un altro, no? E quindi ho detto, empathy ci sta stando. Però l'altro non ha scritto un pezzo, mentre tu hai scritto un pezzo. No. Pronta. Potrei scrivergliene uno io a lui. Cosa ne dite? D'amore anche quello. Allora, facciamo una cosa molto interessante, secondo me. Diciamo i vostri riferimenti, internet, eccetera. Vai. Allora, sito. La pagina che abbiamo su Facebook è facebook.com/AQBEOfficial. Cercate comunque AQBE Official, AQBE fanpage, dovreste trovarla. Quindi... trovate anche il nostro canale YouTube, dove abbiamo tentato di mettere in piedi dei video delle nostre cose. Io soprattutto ho qui davanti una telecamera, perché certo ogni cosa live che facciamo lo registro, poi dipende a vedere se lo mettiamo o no. Su YouTube potete trovare un po' di video dal live e anche qualche cover che abbiamo realizzato. Di rara bellezza. Ma soprattutto potete trovare tutti i dischi, tutti ironico. I testi del primo disco tradotti in italiano, che noi abbiamo voluto proprio fare perché pensiamo, sì, anche per i temi che trattiamo, per le cose, di arrivare più direttamente facendo a più persone. Ecco. Esatto. E se uno vuole materialmente il vostro disco che avete presentato, ecco, stasera, potete trovarlo su Facebook, c'è proprio la pagina che è ben curata, e c'è anche Ascoltaci, da lì puoi trovarlo, mentre potete scaricarli forse gratuitamente da SoundCloud. Pure 70 euro se volete fare un'offerta libera a testa. Se lo loppiamo su Mediafire, poi mettiamo il link. Esatto. E un'altra cosa, se avete qualche concerto adesso, allora a breve abbiamo un concorso che si chiama Tour Music Fest, che a giugno abbiamo passato le selezioni a Music Manor di Brescia, e abbiamo la seconda fase di selezione che è comunque a porte chiuse davanti a una commissione, come a Brescia avevamo due produttori della Sony, sentire, uno era un po' l'istrumentista, cioè ci davano una scheda con scritto pregi, cioè pregi, più che pregi e difetti, cosa va. Tra l'altro noi non va. Sapevamo minimamente chi fosse. Esatto. Ci hanno piazzato sti due tipi e poi ma sapete chi erano quei due là? Io no. Meglio, così non ci hanno spaventato prima. E sì, e ci hanno detto che per la seconda selezione comunque potevamo aggiungere altri componenti. Quindi pensiamo di portare la batteria. E si terrà a Milano. Sì. E si terrà a Milano, però non mi ricordo dove erano gli studi. Boh, comunque c'è la seconda fase di selezione e... Si superate anche quello? Speriamo di passarla, e cioè, si apre la frontiera di suonare in locali milanesi, superando quello. Questo è importante. E superando anche i locali milanesi. La Wembley Arena. Si va fino a Roma. Ah. È proprio... Sono tutti passaggi da fare. Ah beh, sì, sì. Io spero almeno di passare questo, perché suonare a Milano comunque in locali milanesi non è da tutti i giorni. No, visto che voi amate particolarmente suonare, sarebbe l'apoteosi totale. Cioè, c'è così tanta differenza da... Insomma, è così impossibile suonare a Milano. Cioè, ci saranno dei locali... Però... Cioè, non dico quelli che tengono 5.000 persone, insomma. Magari però... qualcuno che ha un locale da queste parti, che sta sentendo questa trasmissione, ah, cioè non ci fa schifo neanche suonare. Esatto, a Vicenza. Certo. Ma anche senza andare a Padova, anche un paesotto, cioè. Bisogna puntare su di noi, però è difficile convincerli, anche perché vuol dire fare una serata alla nostra insegna quasi, quindi se non sei conosciuto, abitando anche comunque abbastanza distanti a Milano, sono circa 100 km, 150 mi ricordo, 100 km sì, ok, cioè da quelle zone non siamo ancora molto conosciuti. Sì, sì, sì, sì. E poi c'è il discorso che avete detto all'inizio di trasmissione, che ci sono tante tribute band, cover band, eccetera, che offuscano un po', molto offuscano. Esatto. Ecco, noi puntiamo con questo concorso di poterci aprire almeno una minima strada per farci sentire. I concorsi sono importanti, visto che si suona dal vivo, ci si mostra musicalmente come siamo fatti. Esatto. Come siete fatti. È meglio sicuramente. È decisamente importante, secondo me. Perché abbiamo già detto tante volte in queste puntate di Rock Wave che gli X Factor e gli amici, tutti i talent show, hanno rovinato la musica, secondo me. Hanno totalmente rovinato la musica e hanno impedito alle giovani promesse, ai giovani artisti di venire fuori, perché spesso e volentieri si ricordano, sì, se vincono questi concorsi, non sono musicisti, sono praticamente cantanti, perché le musiche interpreti, interpreti canta- esatto. Sì. Le musiche non vengono scritte da loro, questo è importante, è fondamentale. Poi si perdono, si spariscono, rimane solo forse. Non è qualcuno ha fatto una brutta fine o rischiava, insomma. Certo. Io non li seguo molto, se devo dirti la verità, quindi... A me mettono ansia. Perché? Molta ansia, vedere queste persone... Che puntano nella vita, cioè tutta la loro vita lì. Diciamo, se gli va male, sì. E mi inquieta questa cosa. Bene, abbiamo ancora circa 10 minuti, abbiamo tempo per due pezzi, uno assolutamente adesso, quale? Allora, abbiamo deciso di riproporre una canzone ascoltata prima, che è The Whispering Clouds, quella con il famoso intro. Certo. E già che ci sono, dato che prima non abbiamo speso nessuna parola sulla canzone, dimmi. The Whispering Clouds significa sostanzialmente nuvole sussurranti e si ispira all'Irlanda. Assolutamente l'Irlanda. Sì, il Monte Croagh Patrick, che si trova nella zona di Westport, dove praticamente saliva San Patrizio a predicare. E spesso e volentieri a luglio fanno delle specie di pellegrinaggi di 22 km ed è molto bello perché praticamente lì c'è la nebbia e come se si riuscissero a toccare le nuvole. E quindi c'è questa immagine di queste nuvole veloci che corrono sopra questa montagna e in certo sussurrano. Senso, sussurrano, cullano il sonno di questi bambini. Infatti è quasi una ninna nanna. Affascinante. Si sente molto il tributo a Enya. Dai, vai. The whispering clouds over the hills became the dress of the moon, and so the stars for a long moment seem to lose their brightness, and darkness on earth spread her mantle on us, and the world prepares to rest. The whispering clouds then began to sing, to bring all the men in their dreams. Please close your eyes, reach out the land of your dreams, forget your fears and your doubts. The whispering clouds that now run over the hills will watch us live in this land. Whispering clouds cover the valley, but soon fell on dreams, only a fog of doubt. And so their sound slowly faded, and the night seemed to last forevermore. But a wind came to dispel your fear, taking away the cold from your heart. And silence, which is a prelude to the rest, lemon as old as your tears. Sleep, close your eyes, reach all the land of your dreams, forget your sorrows and sins. The whispering clouds that now run over your thoughts, we got your dreams in this land. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, ricordiamo Maurizio che questa sera, sì, siamo ormai in chiusura, siamo stati in compagnia degli AQBE da Brescia e adesso, insomma, mancano questi 8 minuti, sentiamo che cosa da gestire, possono proporci e salutiamo allora. Adesso. Sì, possiamo salutare adesso così abbiamo tempo poi da suonare. Devo solo precisare, giustamente faceva notare G, la tua straordinaria capacità di alzare il volume della tua vocalità. Grazie. Decisamente, non hai problemi di alzare la voce come vuoi, praticamente. Grazie. Loro ti fanno un bel tappeto sonoro. Cioè, stasera sono anche particolarmente in forma, quindi... Ispirato. Ispirato, esattamente. Cioè, è stata una bella cavalcata, due ore di musica vostra, assolutamente vostra. Ripetiamo, originale, qui non ci sono le cover band, e queste, per carità, io non sono niente con le cover band, sono musicisti molto spesso fanno i cover band. Sono bravissimi, sono bravissimi. Sì, sì, sì. Però inventarle da zero è un'altra cosa. Sì. Che poi le facciamo anche noi le cover. Sì, fate anche voi. A proposito di cover, voi avete inciso un EP vostro di musiche di sei pezzi nuovi. Esatto. Di cui ci sono delle cover praticamente. Esatto, sono sei pezzi che abbiamo registrato questo gennaio. La qualità è anche inferiore a quella della nostra demo. Il demo era abbastanza buono, cioè, decisamente. È un po' più bassa. Per il demo vorrei ringraziare Emanuele Agosti, che bisogna probabilmente fare il suo nome, perché è stata la persona che ci ha permesso di... ha guidato la nostra ignoranza, si può dire. Esatto. Grazie Ema. Vi ha condotto praticamente. Ci ha condotto. Mentre per le cover le potete trovare comunque alcune disponibili su YouTube. Quindi se scrivete a QBE sicuramente qualche cover vi salta fuori. Devo citare qualche esempio. Certo, vai. Ultimamente abbiamo fatto Someone Like You di Adele, visto cavalcando versione maschile. Versione maschile è comunque è un po' più bassa, ma raggiunge Message in a Bottle dei Police. Message in a Bottle dei Police, Reptilia degli Strokes. Anche Reptilia degli Strokes avete fatto. Sì, ci siamo cimentati anche un po' nell'indie, rendendolo un po' più acustico. E comunque qualche altra cover. Mi fanno una richiesta. Mi danno una richiesta. Sì. Siete pronti? Sì. Dipende. Adesso ve lo dico. L'idea era chiudere con il pezzo. Sì, quello clou. Però leggermente abbiamo circa qualche minuto. Cinque minuti. Sei. Minuto e mezzo, 2 minuti di Adele. Ce la fate? Sì. Tutti. Una grande richiesta. Fatta. A grande richiesta. Già eseguita. Dovete darmi le parole, facciamo il ritornello. Il ritornello, fate il ritornello, dai. Fammi sto fuori perché argomenti. Non mi ricordo le note. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I bet. I remember you said someone you last love, but sometimes it hurts instead. Basta. Ok, abbiamo finito, Sergio. Cosa sì, dici? Abbiamo cambiato un po' il ritorno. Ma è giusto che sia così. Abbiamo finito, sì, Maurizio. Domani chi c'è? Aspetta. Domani c'è Agostino, sì, con un gruppo che fanno le cover. With Matrix. È una tribute band dei Pink Floyd. Vedi che è le cover? Appena parlato. In modo diverso. Assolutamente in modo diverso. Se sono i Pink Floyd, scusa, Posso dimmi. Fare saluti, ringraziamenti. Sì, certo. Ovvio. Prima di tutto salutare la mia famiglia, dai, la mia ragazza, e vorrei ringraziare, a parte loro, tutti i nostri fan, tutti i nostri amici, voi per la possibilità che ci avete dato, e personalmente vorrei ringraziare Stefano e Domenico. Ui, grazie. Ma caro, grazie. Che bello. Lo porto a casa stasera. Tanto dorme sulla macchina. No, non riesco a dormire perché sono troppo... Vi ringrazio per averci dato questa possibilità di suonare qua. Siete stati molto di compagnia, avete fatto sentire il nostro agio, davvero. Grazie. Vorrei ringraziare tutti i nostri fan. In particolare vorrei ringraziare il mio amico Marco, che è il nostro primo fan. Quindi l'ultima canzone sarà dedicata a lui, Domenico. Niente. Non ringrazi nessuno. Enia. Beh, sì, ringrazio Enia. Enia, che è sempre una gran bella donna. 51 anni, ragazzi. Cavoli, ma si vede bene. Se sei single, pensaci. Se sei impegnata, pensaci. No, vabbè, ringraziamo un po' tutti, le nostre famiglie, eccetera. Ringraziamo tanti gruppi che abbiamo conosciuto. In particolare, qui in Veneto ci abbiamo. Volevo ringraziare gli Onatem di Treviso. Ciao ragazzi, Matteo. E poi non so, c'è qualche altro gruppo, non so. E beh, poi vabbè, gli amici familiari, eccetera. Anche i Night in Paris di Cremona. Li salutiamo, anche gli Ivenoir di Cremona. che sono tutti gruppi che e gli altri abbiamo che non abbiamo salutato e ringraziato spero non sia anche arrabbi. Planton da Da Wave di Varese. Benissimo. Bene. Ci hanno sentiti tutti. Sì, tutto il mondo. Frequenze ovunque. Concludiamo con il primo pezzo che abbiamo 3-4 minuti insieme. 3 minuti. Si intitola Sleepwalks. Grazie a Sergio, grazie a Gil. Ciao Maurizio a tutti. Ciao, e ciao a tutti. Ciao a tutti. Under the stars, over the mist, they try to change their dreams. When sun is hidden by the hill, you can find invisible things. And if you see them shining light, you know that winter is past. And if you call them with your name, they leave the souls on the bed. Are they sleepwalks with the sun fire burning? Every desire losing anyway to the places under, moving to faces, try to open the wings and fly. Memory will escape now, bloom my song, darkness fly now, over the clouds tonight. Over the roofs under the moon, they try to follow their dreams. While sailing in a ship that's wrecking, they miss their face in the steam. They bring the tears in morning shine when nothing seems so real. And if you call them with a name, they leave their body on bed. Are they sleepwalks? We see the fire follows every desire, losing any sign of the truth. Places under, moving to faces, try to open the wings and fly. Memory will escape now, dream a song that can fly now over the clouds tonight. Spirit blows on me.